8:27, siamo nuovamente in collegamento con la piazza di Montecitorio, con un compagno che si trova lì in questo momento. Mi senti? Eccoci, okay, allora vai. No, solo per un brevissimo aggiornamento, si sta ancora aspettando che tutti i compagni fermati vengano rilasciati. Per il momento 6 sono stati rilasciati, ne abbiamo la certezza assoluta, mancano 3 persone. Quindi aspettiamo anche queste ultime 3 persone. Ci sono un po' di problemi perché diciamo soprattutto relativamente agli immigrati, e a uno in particolare insomma che aveva un permesso scaduto, ma insomma sembra che insomma c'è la ferma intenzione comunque di rilasciare tutti, e quindi da questo punto di vista non dovrebbero esserci problemi. Un'ulteriore questione è sorta invece proprio pochi minuti fa, perché abbiamo saputo che alcuni manifestanti sono stati fermati proprio qui nelle zone limitrofe, nei pressi di Via del Corso. Quindi mentre si muovevano dal presidio? Mentre andavano via dalla piazza, esattamente, sono state fermate, hanno chiesto i documenti, e quindi anche questo ovviamente insomma è stato oggetto di valutazioni e anche delle giuste critiche insomma da parte degli attivisti che si trovano qui in piazza. Ovviamente la scelta a questo punto è quella di muoversi solo in gruppo e magari di evitare la strada centrale, cioè il corso, e andare dalle vie laterali, perché sembra che ci siano appunto questi filtri. Quindi ci sia una tutela, ecco. Quindi anche eventualmente per raggiungere Montecitorio, stesso discorso, insomma, forse è meglio arrivare forse sarebbe meglio evitare in questo momento. Incorrere con piacevoli incontri ravvicinati. No, peraltro nel collegamento precedente avevo sparato così delle cifre rispetto proprio a quanto emerso dalla conferenza Stato-Regioni, probabilmente non erano cifre esatte, insomma avevo fatto riferimento a circa 100.000 euro, forse sarà qualcosa, non sono queste le cifre, ma insomma quel che è certo è che si tratta davvero di poca roba, di briciole, che sostanzialmente gli aspetti rivendicativi che si stanno esprimendo in queste giornate non sono presi in considerazione per quello che sono, e quindi insomma una nuova politica abitativa, possibilità comunque di rivedere non soltanto la questione della moratoria sugli sfratti, rispetto alla quale c'è comunque una chiusura, perché è stato detto che i primi ad essere tutelati devono essere i proprietari di case e non gli inquilini, quindi anche su quel fronte c'è una certa rigidità, e soprattutto non si è mosso alcunché rispetto a altre questioni come quella del patrimonio pubblico in dismissione, per non parlare appunto delle parole d'ordine relative alle requisizioni degli sfitti e via di seguito. Quindi non sembra ci sia una grande volontà di dialogare avanti, e quindi ovviamente se ne prenderà atto e si decideranno le azioni da costruire in futuro. Certo, senti, come prosegue per adesso la giornata? Quindi al di là insomma delle attese dei compagni, ancora 2 o 3, quanti sono ancora fermati? 3 mi pare. 3 persone, okay. Su 3 persone non si ha ancora l'ampista del rilascio. Quindi comunque l'attesa di avere tutte e tutti liberi per questa sera, e insomma il presidio continua lì a Montecitorio, quindi. Sì, il presidio sta continuando, e quella diciamo del rilascio è la condizione basilare affinché insomma la giornata si concluda, quindi non ci si muove da qui fino a che non si ha questa agognata notizia, che comunque noi crediamo dovrebbe arrivare qui a breve. Per il resto sì, in questo momento il presidio è ancora molto molto nutrito, perché sono diverse centinaia le persone che si trovano qui davanti a Montecitorio, ha assunto una forma piuttosto così statica, di tanto in tanto resa vivace da balli e percussioni che vengono fatti qui in piazza, insomma. Ormai sono diverse ore che si sta qui e soprattutto sei in attesa di sapere che tutti siano rilasciati. Va bene, dai, ci risentiamo magari fra un po', sperando di, insomma, di avere buone notizie. Va bene. A dopo, ciao. Grazie.